Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ti devo mandare a fanculo subito, prima che incomincio a parlare, perché allora, ti mando a fanculo, ciao Beppe, ok? Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Qualche ascoltatore, Parenzo, mi dice di leggerti questa notizia, non sono io, molti mi hanno scritto, leggi questa cosa a Parenzo. Bologna, due punti, famiglia ospita profugo, lui violenta la figlia di 6 anni. Un giovane senegalese in Italia con lo status di profugo è stato arrestato per aver abusato di una bambina di 6 anni, figlia di una coppia di amici e connazionali che lo ospitavano da giorni. È successo a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il 27enne da giorni godeva dell'ospitalità di una coppia di amici dei genitori, non potendo disporre di altro alloggio. Cosa devo dire? Ma non lo so, ma io ti sto dicendo. Ma secondo te cosa devo dire? No, è un diversi ascoltatori. Gli ascoltatori, alcuni sono idioti, non è che diversi ascoltatori. Allora, diversi ascoltatori mi dicono, leggi questa notizia, sì, penso, letta, all'inizio della per trasmissione. Dire che cosa? Ma non lo so. Che io difenderei chi? Famiglia ospita profugo, lui violenta la figlia di 6 anni. Posso difendere una porca, un criminale simile? Ma figuriamoci, ma non. E allora? Assolutamente. Vada a farsi fottere quell'ascoltatore che ti ha segnalato di leggermi questa notizia. Vada, educate, in modo educato, alle 18.38, vada a farsi fottere. Apriamo con una cosa che riguarda il mondo del calcio, caro Parenzo, perché non stiamo parlando della vittoria straordinaria della Juventus di sera, anzi del pareggio, comunque dell'ingresso in Champions League, ma di quello che succede nei poteri del calcio, nelle stanze, no? Nelle stanze che governano il calcio italiano. Tu te lo ricordi quello che fu una volta il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e oggi è il presidente della Federcalcio Ottavecchio, no? Come? Quello, delle banane, no? Sì, un po' razzista, appunto. Certo. Beh, adesso razzista, fece una battuta. Benissimo, non esiste il razzismo, ha fatto no, solo ma sentiamo. Risentiamo quella famosa performance del signor Tavecchio, se ce l'abbiamo, signor Tavecchio. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio e va bene così. Allora, uno dice, vabbè, c'è un successore, questa è andata alla Federcalcio a comandare tutto il calcio italiano, no? E vabbè, d'accordo, e passi in cavalleria. Le accuse di razzismo, le punizioni degli enti calcistici sovranazionali, eccetera, eccetera. È arrivato un altro che si chiama Belloli, credo di pronunciare bene, il signor Belloli, che è presidente appunto della Lega Nazionale Dilettanti, il quale esordì in questo modo. Ti faccio sentire, Come sarà la Lega Nazionale Dilettante di Belloli? E continuare anche il lavoro di Tavecchio, già continuare quello sarebbe un grosso successo, no? Perché dopo 15 anni ha lasciato una Lega che aveva trovato a zero, con un grosso patrimonio, organizzata, ben stimata in giro. Dunque già continuare il lavoro di Tavecchio sarebbe già un grosso successo. Proseguito il lavoro di Tavecchio talmente bene questo Belloli, tu non la sai sta notizia, che a un certo punto, ma la cosa è proprio scritta nero su bianco, durante una riunione di questa Lega Nazionale Dilettanti, indovina che frase ha detto, basta dare soldi a queste quattro lesbiche. Un bel passaggio. Non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche. A chi si riferisce? A quelle che giocano a pallone in Italia, cioè al calcio femminile. Basta dare soldi alle lesbiche. Amiche che giocate a pallone, pochissime in tutta Italia, siete tutte lesbiche. proposito di gay e lesbiche, da qualche giorno ho segnato questa notizia che proviene dal Gambia, dagli amici del Gambia. Bisognerebbe fare una telefonatina all'ambasciato, al consolato del Gambia. Il signor presidente del Gambia, un sincero democratico, cosa scrive? Beh, se sei un uomo e vuoi sposare un altro uomo in questo paese e ti becchiamo, nessuno ti vedrà mai più. Ti taglierò la gola. E nessun bianco può farci niente. Insomma, bianchi, fatevi i cazzi vostri. In Gambia, se sei gay, ti tagliamo la gola. A proposito di stupratori, Salvini alla castrazione chimica, di nuovo all'assalto questa mattina Mediaset. A proposito della cura, perché la castrazione chimica è una cura. Io ricordo che paesi come gli Stati Uniti, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Francia, la Germania applicano questa cura. Beh, se fai uno stupro, oltre che essere un maiale, sei un malato, ti devo curare, poi riesci, ti rifai la tua vita, ma non potrai più mettere le mani addosso a una donna perché sei un malato per il resto dei tuoi giorni. Sì, però questa cosa qua la dobbiamo verificare, eh? È possibile farla, serve, non serve? Già una volta l'abbiamo fatto, però le cose vecchie vanno sempre bene. Cioè, se può fare sta castrazione chimica, serve a qualcosa, che bisogna fare? Cioè, addirittura degli stupratori la vogliono poi la castrazione, cioè dicono sì, castratemi, sono malato, castratemi, però poi altri scienziati dicono no, non si può fare, tanto non cambia nulla. Vabbè, vediamo. Secondo la Boldrini, 20.000 profughi da accogliere in Italia sono il nulla, cioè sono pochi. Anche se sono 20.000 e diciamo per 28 paesi sono, facendo il calcolo, no? Sì, meno veramente di 1.000 persone, poco, sì. Meno di 1.000 persone a paese, quindi non è nulla se si considera che nel mondo ci sono almeno 50 milioni di rifugiati che vivono nei paesi confinanti, quindi parliamo di numeri 20.000 irrisori. Beh, numeri irrisori, numeri. Io certo, se uno pensa alle grandi migrazioni del mondo saranno pure irrisori, ma io ripeto sempre il mio motto che vorrei tatuarmi su un braccio se non mi facessero schifo i tatuaggi, non sono come Fedez. Respingere è umanitario. Non lo dico io, lo dice un grandissimo paese come l'Australia. No, e se lo dice un grandissimo paese come l'Australia, e che anzi, che l'Australia sia un grande paese, lo dimostra pure l'atteggiamento che ha nei confronti degli animali, nei confronti dei cani. Perché improvvisamente l'Australia diventa un modello. Per me è un modello assoluto. Modello assoluto. Vorrei vivere in Australia. Vivere in Australia. Paese serio. C'è niente. Paese serio. Paese molto serio. Paese di ex galeotti. Paese serio. Paese serissimo. Paese di ex galeotti l'Australia. Appunto, perché è nata come che hai contro gli ex galeotti? Che c'hai? E allora, che fai? Il riscatto, appunto, no? Dovresti essere a favore. Paese serissimo. Che fa rispettare le regole. Allora, l'Australia che fa contro Johnny Depp? Questo qua si era portato nel suo aereo privato, credo, i suoi due cani fighetti. I signori australiani, il ministro, le autorità australiane non guardano in faccia nessuno, non è che fanno entrare l'attore coi cani e non dicono niente come in Italia, no? Che scorazzano liberi e belli dove vogliono. E no, l'Australia cosa dice? Via i cani o li sopprimiamo? Beh, mi fanno emozionare queste cose. Mi fanno emozionare. Gli animali del signor Johnny Depp non hanno rispettato la quarantena. Sai che in Australia, nei paesi anglosassoni, ci sono delle regole durissime su questa cosa, giustamente durissime, perché gli animali possono portare delle malattie. Giustamente ci sono delle regole ferree che il signor Johnny Depp pare non abbia rispettato. Allora, lui ha, signor Johnny Depp, sto parlando, un attore famosissimo, 72 ore per farli uscire dal paese, altrimenti soppressi i cani fighetti di Johnny Depp. Questo è un paese, l'Australia, a respingere è umanitario. Tuo amico Ricci del Partito Democratico Renziano dice che hanno bisogno del wifi i profughi. Finalmente parole di un minimo di buon senso più che di civiltà. Sì, certo, vai. Non è, perché non è buonismo. Sentiamo i wifi i profughi. Perché pazzesco, tu puoi avere il wifi pazzesco, gratuito pazzesco. A Roma quando giri, a Villa Borghese. Ma io non il sono wifi profugo, gratuito, però. Ad esempio. Non sono profugo. Ma sì, ma che c'entra? Certo, Villa Borghese è un profugo, ci vai, uguale. Hai il wifi gratuito, no? Ma che c'entra? Ma dai, su questi avere se ne vanno da un albergo. Per usare Skype per telefonare. Ricci, mi pare umanitario. Partito Democratico. Pagagli la scheda del telefono, no? Partito Democratico. Non possono stare tutto il giorno senza far niente. Io ce li ho sotto il comune perché abbiamo il wifi e vengono giustamente a comunicare con i parenti, gli amici che hanno in Africa o in giro per il mondo. sono uomini come noi. Io capisco che per te sono una razza inferiore, per me no, per me sono uomini come noi. Tu che fai quando vai a dormire? I sogni, traffico. La Zanzara. Eccoci qui, 800 24 00 24. Non ci sono solamente i servizi tarocchi di quinta colonna sui rom, che sono una cosa gravissima, per carità, e noi li abbiamo segnalati. Ci sono pure gli abusi dei rom realizzati da uno che è stato cacciato, però. Sì, sì, realizzati da uno che è stato cacciato, ma ne abbiamo già parlato ieri e ne parleremo ancora. Ci sono anche gli abusi dei rom e un paese che non vale nulla, al contrario per esempio dell'Australia di cui abbiamo parlato, un paese che non riesce nemmeno a far valere le ragioni di un tizio che si chiama Giorgio Polara, che ho visto ieri durante la gabbia e che adesso proveremo a chiamare, che è proprietario di un capannone, di un magazzino in Toscana, vicino Firenze, che ha vinto una causa, ma dopo tre anni non riesce a riavere indietro il suo capannone e paga l'IMU. Proviamo a chiamarlo, dai, Polara. Pronto? Signor Polara? Sì? Buonasera, sono Cruciani da Radio 24. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, lei è il marito, mi sembra, della proprietaria di quel capannone, no? Occupato dai rom, o sbaglio? Sì. Le volevo chiedere questa cosa qua, cioè, di riassumere un po' la questione. Cioè, voi da tre anni, me la riassume un attimo? No, è da tre anni che è occupato e praticamente abbiamo fatto tutte le istanze al comune, al prefetto, al questore. Sì. E ci hanno detto semplicemente che c'è una lista d'attesa. Come una lista d'attesa? Per cui il Comitato per la Sicurezza e il Controllo del Territorio si riunisce e stabilisce il calendario delle situazioni che vanno sanate come la nostra. Cioè ci sono da tre anni evidentemente la lista è lunga. Così ci dissero all'inizio quando interpellammo anche il sindaco, ci rispose gentilmente il vice sindaco, sì. Ci disse al momento non possiamo fare niente perché c'è una lista d'attesa. E secondo tre lei anni, tre anni non sono poca cosa. Eh no, certo. Quanto avete pagato in questi tre anni, scusi? 4-5 mila euro l'anno. Ah, 15 mila euro buttati al cesso. Buttati nel senso... Però noi fossimo stato in grado di affittarlo o di venderlo, il problema chiaramente non era molto molto più semplice. Senta, lei che pensa di quei rom che sono lì? Ma i rom che sono lì, semplicemente il problema sta nel fatto che abbiamo un sistema di accoglienza che è probabilmente sbagliato. No, perché ho saputo da altri proprietari di aziende vicine alla sua che hanno anche rubato dentro altri magazzini. Può darsi, questo non lo so, ma può darsi benissimo. Queste sono le forze dell'ordine che ne saranno senz'altro a conoscenza, carabinieri e polizia. Mm. Senta, il suo magazzino in che condizioni è? Ma, ora siamo preoccupati perché come ci ha detto ieri sera il sindaco Nardella, la nostra situazione dovrebbe essere vicina alla conclusione. Poi la domanda che ci siamo chiesti, ma in queste condizioni quanto ci costerà rimetterlo e risanarlo? Perché è una situazione, lì occorre la ruspa e poi occorre anche tutto un sistema di trasporti per portare via, cioè hanno fatto capanne, case in mattoni. La ruspa non quella di Salvini, però di ruspa. No, io non lo so, a quel punto chiederemo al comune di aiutarci perché logicamente la spesa sarà notevole per ripristinarlo. Scusi, però che paese è quello quello nel quale dopo tre anni voi avete continuato a pagare l'IMU per un'occupazione e nessuno è in grado di sgomberare? È un paese che per conto mio è gestito male, è amministrato male perché ci sono molti elementi che sono nella maggioranza a questo punto che attuano la politica del buonismo senza far rispettare le regole. Senta, lei per chi voterà alle regionali? Se io lo posso... Sinceramente non lo so se vado. Ah, non sa manco se va, perché talmente... Perché io non lo so, perché... È schifato. È tutto, sono schifato, per il semplice motivo che... non lo so se o destra o sinistra siano ambedue in grado di risolvere la situazione. Cioè non ha fiducia nemmeno in Salvini che dice che vanno sgomberati Salvini, tutti i campi rom. Lui incomincerà a fare quello che dice, questo ne sono convinto, ne sono fermamente convinto, ma bisogna vedere se glielo lasciano fare. perché e la sinistra e la sinistra in Toscana e la sinistra minori, in Toscana la tutela dei minori, tutte queste, sì, queste cose evidentemente è presente, e chiunque sia che va a governare si deve scontrare con questa normativa, a meno che non la voglia abolire, ma e la sinistra sinceramente in questo momento è quello che è più vicino a noi. Salvini è più vicino a voi. E la sinistra nei confronti dei Rom che atteggiamento ha? Ma la sinistra mi lascia perplesso, perché evidentemente c'è la nuova sinistra, quella di Matteo Renzi, che evidentemente è più aperta alla soluzione di problemi di questo genere. Però si deve scontrare contro la sinistra buonista che praticamente per conto mio ha rovinato l'Italia. Senti una cosa, ma lei ha mai provato in questi anni ad entrare dentro quel camp Rom? Ad entrare dentro casa sua, diciamo. Entrare non sono così coraggioso. Ha paura? Qualche mese fa dal camp Rom è uscito un armadio con le gambe che mi ha chiesto cosa desideravo. Io a sua volta gliel'ho chiesto a lui e è finita lì. Entrare dentro il camp Rom, che poi a casa sua in realtà le fa paura, cioè non posso entrare, certo, sì non c'è dubbio, non posso andare a casa mia, questa è la sostanza. Questo è la situazione reale, e non capisco, ecco, le nostre forze dell'ordine, se io dovessi entrare lì, cosa fanno? Raccolgono i miei resti, raccolgono. Credo che ci sia questo pericolo. Ma io difatti me ne guardo bene. Anche perché poi nell'arco di questi 3 anni la situazione è peggiorata, perché nel momento in cui ci fu l'occupazione, sì, entrarono lì dentro, c'era il capannone coperto e stavano lì. Poi man mano si è evoluta, ora ci sono capanne sia dentro il capannone sia fuori, è una piccola comunità organizzata, cioè, hanno la stradina centrale, ho visto. Cioè si sono costruiti una piccola città, insomma, no? Sì, hanno fatto il loro campo, che poi io non capisco, se sono nomadi, ne confesso, ero affascinato dal mondo dei nomadi con il carrozzone, l'antesignano del camper, questi che girano il mondo. Invece? Ora sinceramente mi sembrano di uno squallore immenso. Va bene, grazie. Saluti. Buonasera. Arrivederci. Allora ragazzi, l'Italia è questa. Da 3 anni questo signore, che è anche una persona pacata, no? Cioè non è un leghista di questi civile, che dicono che bisogna bruciare tutto, no? O che bisogna portare via i Rom e metterli non so dove. È una persona normale, uno civile, che ha casa sua, perché quella è casa sua, occupata, e c'è lo stile, non do manco la colpa ai Rom da questo punto di vista. La colpa è dello Stato, di regole del cavolo, eccetera, eccetera, di una giustizia che non funziona. I Rom fanno il loro mestiere, i Rom occupano quel posto, si fanno i cazzi loro, è il mestiere loro, cioè non è un altro mestiere, no? Cioè stanno in quel campo, ci costruiscono una casa intorno, ci costruiscono le loro strade, le loro baracche, e fanno il loro mestiere, che è quello di essere Rom, cioè che in realtà non è quello, ma comunque lasciamo perdere. È lo Stato che dovrebbe intervenire. Ma se è casa mia, ma perché non porto via tutto? Perché ci stanno i bambini, perché ci stanno le regole, perché ci stanno questo, perché ci sta quella legislazione, perché ci sta quel cavillo, perché ci sta quell'emendamento di quella legge, perché c'è quel giudice che dice no, non si può intervenire perché... Ma dai, su! Le fai tu, vabbè, dai, giornalista, dai, la radio la fai tu, sei tu il fenomeno, parli tu! Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Dai, ma scusa, ma questa trasmissione è fantastica, c'ha sempre però quel Parenzio che comunque è messo lì a dire delle cose un po' strane. Grande Prezzo! Talk about her like a queen. amico Gad Lerner, a proposito della vicenda dei video taroccati di Mediaset, difende il giornalista cacciato da me. Giornalista, no, vabbè, non rompere le palle. Abbiamo detto video taroccati di una trasmissione Mediaset. Qui si riassume, in questa, alla radio si riassume: video taroccati da una trasmissione Mediaset. È chiaro. Un giornalista che ha fatto una. Oh, Dio, ma guarda che sei incredibile, eh? Cioè, nessuno ti accuserà mai di nulla. Non ti preoccupare, amica, a me. Non ti preoccupare. Sono preciso come sono preciso. Stai tranquillo, nessuno ti caccia. Nessuno ti caccia. Io non è che ho paura di quello, sono preciso come sono preciso. Ma non è no, su altre questioni non sei così preciso. No, sono molto preciso. Non sei così preciso. Molto, molto. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Il tuo amico Gad Lerner dice in sostanza che questo signore pare che uscirà in serata un comunicato. Com'è che si chiama? Non mi ricordo. Comunicato di chi? Suo, di questo. Che fa comunicare? Benelli, come si chiama? Benelli. Ah, il giornalista cacciato. Il giornalista cacciato. Benelli pare che faccia un comunicato per. Il Quirinale. E che cos'è? Per chiarire la situazione. Per chiarire la situazione. Legittimo. Beh, uno fa un comunicato. L'abbiamo chiamato. Detto legittimo prima. Che lui faccia qualcosa. Certo, l'abbiamo chiamato. Non dice non posso parlare perché. Comunque ha detto anche che alcune cose sono state interpretate male. Vabbè. Lerner prende le sue parti, Gad Lerner, dicendo in sostanza che cosa? Dicendo che è un capro espiatorio, che la colpa è di quelle teletrasmissioni, in particolare il signor Del Debbio, che costruiscono l'odio, sono costruite per aizzare l'odio nei confronti degli extracomunitari, dei rom, eccetera, eccetera. Lerner! Il fatto che sei persone ospitate in una casa privata suscitino questi richiami alla prostituzione, alla clandestinità, alle malattie addirittura, ho letto, e spingano un sindaco e un assessore a andare sotto casa di questa signora e farsi fotografare mentre citofonano, con ironia poi scrivendo citofonare profughi, e noi i profughi non li vogliamo e no ai profughi nelle case private, mi ricorda purtroppo un clima d'altri tempi. Il clima d'altri tempi è il fascismo, il nazismo. Faceva riferimento naturalmente al fatto che il sindaco di Padova, Bitonci, è andato a fare una specie di marcia sotto casa insieme ai cittadini di una signora di 90 anni che voleva ospitare a casa sua sei profughi. Che ha ospitato sei profughi. Mannarino è un cantante il quale manda Salvini a fare in culo. Così. Oh. Viene dalla Romania. Saluto. Saluto bel prete mio. Salvini, vaffanculo. Va! Ieri da noi invece Razzi sostiene che l'uccisione del ministro nordcoreano è una cazzata. Ministro nordcoreano che sarebbe stato ucciso con una cannonata. È grave addormentarsi davanti al capo massimo, no? No, non è bello, ma è chiaro che non se fossi è chiaro che non è bello, però no, ma addormentarsi non credo che arriverebbe a tanto. No, dici, è una brava persona, dici della. Io conosco Kim Jong-un, è una brava persona. Non, e sicuramente non sarebbe capace di fare queste cose, come dice, l'ha sparato con un cannone, ma che cazzo si crede a questo? Andiamo in provincia di Salerno, Mario, vai, Mario. Allora, pronto, buonasera. Dimmi. Allora, voglio farti una proposta. Io non sono nessuno, però vorrei fare una propostina di legge. Ma che c'entra se non sei nessuno, scusa? Che c'entra? Va bene lo stesso, vai, dimmi. Sono un modestissimo cittadino, vecchio, pensionato, quindi... Va bene, vai, Mario, forza. La mia propostina è questa. Visto e considerato che quando tu accendi la radio, la televisione, senti delle cazzate madornali, sì, no? Sì, da sì. Parte di tutti quanti i politici, facciamo gli sbarchi, mandiamo le ruspe, ma non solamente Salvini, allora? Le cazzate sono generalizzate. Sì. La mia propostina è molto semplice e risolveremo tantissimi problemi. Sì. Tagliamo la mano a tutti i politici, una mano, come si faceva una volta che io ho visto fare in Arabia Saudita, no? Tagliamo la mano a tutti i politici, partendo dal consigliere comunale al senatore. No, ma è una provocazione, Parenzo, non ti allarmare, sì, non no, sta dicendo sul serio. Vabbè, Mario, che vuoi dire con questa roba? Non ho capito. Voglio dire che praticamente chi ruba, quando è un politico che ruba, anche con una biva, tagliamo la manina. Non ti Parenzo, non ti allarmare. Perché no, ma va bene, una B sola, ho detto, per precisione. In questo modo noi risolveremo una serie di problemi. Sì. Immagina che il Senato sarà molto più colorato perché avremo delle protesi vendute, quindi avremo anche un aumento del PIL, perché tutti quanti questi che hanno una mano in meno si andranno a mettere praticamente una manina nuova, sì, quindi si danno spese per gli istituti che le fanno. Poi dopo avremo risolto un altro problema, quello delle pensioni a queste persone. Beh, oddio, insomma, diventando poi invalidi, esatto, gli danno la pensione di invalidità, amico mio. La pensione di invalidità. Beh, avremo problemi anche di spesa sanitaria. Non è una grande idea, Mario. No, quello non c'è problema. Se tagliamo la mano a tutti, come dici tu, se tagliamo la mano a tutti, abbiamo un sacco di problemi. Tommaso dalla provincia di Modena, vai. Pronto, Cruciani. Dimmi, Tommaso, dimmi. Ciao. Senti, volevo solo dirti che hai detto una cazzata prima quando ho parlato dei cani di Johnny Depp. In che senso? Hai detto una grandissima cazzata. Nel senso che non si possono sopprimere dei cani, no? Sì, ma non so, ma è in Australia che lo fanno, capito? L'Australia. Sì, capito, in Australia. Però L'Australia, se tu non rispetti le regole che riguardano la sanità, i cani vengono presi e soppressi, ho chiaro? Capito, ma se il signor Johnny Depp andasse lì con un certificato del veterinario che i cani sono di buona costituzione, sono sì, ma deve fare quello che è previsto dalle leggi australiane, se non lo fai, gli sopprimono i cani. Vabbè. Se non rispettano le regole di ingresso in un paese, i cani vengono soppressi. E a me, sinceramente, non me ne può fregare meno che vengano soppressi. Che l'Australia diventa un faro di civiltà. Ma perché qual è il problema? Che la civiltà. Che la, cos'è? La Germania cose... hitleriana, che cos'è la Germania? No, quello dopo. Mi pare che le due cose che hai citato che fa lo sapere, vai, due stupidaggini. Ma un grandissimo paese, Tommaso. Allora, idiozia. Ma quale idiozia? Visto che è stato un paese di migranti. Su Salvini, scusami, adesso accogliamo tutti perché è un paese di migranti. Vai, Tommaso, accogliamo tutti. È un ignorante, perché Salvini è un ignorante, perché la castrazione chimica non serve un cazzo, no? Non serve a niente, perché una donna si può stupare anche con le mani, con la testa, con la mente, con i messaggi, con i video. Beh, sì, quello diciamo si parla soprattutto dello stupro di un altro tipo in questo caso, non dello stupro mentale. Però certamente con le mani si può anche stuprare, non c'è dubbio. Però se ti manca l'appetito, se ti manca lo stimolo, questo è il senso della proposta. Ma ripeto, secondo me non serve a nulla, nel senso che sarebbe un po' complicato e deve essere volontario. Magari per Salvini deve essere obbligatorio. Grazie, Antonio, Roma, vai. Antonio. Allora, ciao Cruciani, senti, io vorrei fare una premessa. Io conosco molto bene i Rom, sì, li conosco perché ci sono stato insieme per tanto tempo. In che senso li ho frequentati per vari motivi, sia quando avevo dai 15 anni fino adesso che ce n'ho 70. Allora? E per cui li conosco bene. Quello che dico lo dico a ragion veduta. Dimmi. Io ho un modo per risolvere il problema. E qual è? È un modo che è impossibile da oggi, con le leggi che abbiamo, con l'andazzo che c'è, che ci mangiano sopra, è difficile risolverlo. Vai, dimmi. Però l'unica soluzione sarebbe una sola. Qual è? Proprio fare delle riserve. Ma perché adesso che dove c'è? Aspetta, un attimo. Vabbè, delle riserve, un momento, vai. Delle riserve in cui controllati, prima di tutto fare un censimento vero con le impronte, perché loro cambiano nomi tante volte. Ma molti sono italiani, non c'è bisogno delle impronte. Italiani. Guarda, io ti voglio dire una cosa. Vedi, no, non ho capito la proposta. Qual è, Antonio? Vai veloce su la proposta. Il problema è questo: che noi non capiamo che loro hanno una deviazione culturale. La deviazione culturale loro è che il furto è una cosa permessa. È una cosa. Vabbè, dunque, lecita. La proposta qual è? La proposta qual è? Di fare dei campi, delle riserve, come hanno fatto gli americani per gli indiani. Sì, purtroppo. Ma, guarda che è lo stesso adesso. Guarda che è lo stesso. Adesso più o meno con i campi rom non è che sia molto diverso. Ma no, non è lo stesso. Perché tu gli fai i campi rom, gli fai le riserve fuori, nelle zone in campagna, agricole, in aperta campagna. In campagna gli la dai, proposta gli dai di Antonio. Semi, gli dai tutte semi. Le cose. Per imparare a fare l'agricoltura. Ho capito. Vai, allora, ho capito benissimo. Grazie. Francesco Cagliari, ho capito. Francesco da Cagliari, vai. Ciao, buonasera. Dimmi, Francesco, dimmi. Tornavo al discorso invece io degli animalisti vegani. Vai, dimmi. Dunque, mi chiedevo se alcune persone prendono in considerazione il fatto che rispetto agli animali non c'è solo il problema della carne, c'è il problema della pelle che serve per fare i sedili. Beh, certo, assolutamente. Un sacco di animalisti hanno gente che si professa contro l'uccisione degli animali, poi c'hanno le scarpe, le borse, eccetera, eccetera. Hai lavorato a Roma? Qualche anno fa la presidenza del Consiglio e ha assistito all'arrivo di un nuovo sottosegretario allora al turismo, animalista, esatto, che la prima cosa che ha fatto appena arrivata si è fatta sostituire le poltrone del suo ufficio, comprando delle splendide poltrone in pelle bianca, e per quanto le ha pagate non credo che fosse pelle sintetica, insomma, quindi no, assolutamente. Ma lo sa per certo o no? Beh, erano poltrone potrebbe di pelle. Essere pelle sintetica, appunto. Io conoscendo la Brambilla credo che sia attenta a queste cose, però perché proprio su va bene, Francesco, verificheremo anche se è una roba vecchia. Io ripeto la frase clamorosa pronunciata da un tizio che è uno dei capi del calcio italiano, si chiama Belloli, non è conosciuto, ma è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti: basta dare soldi a queste quattro lesbiche, e parlava delle giocatrici femminili del calcio. A tra poco. Ma guarda che siete veramente strani. State ascoltando un programma offerto da AET Italia, l'energia elettrica per imprese e reseller. Visita il sito aetitalia.net. La Zanzara. Dice che uno si incazza e poi dice che uno si incazza. Allora, abbiamo parlato nei giorni scorsi, Parenzo, della vicenda di extracomunitari che rifiutano l'albergo dove sono stati assegnati, profughi che rifiutano di entrare in un certo albergo perché ci sono le donne sposate, le donne incinta, perché non c'è wifi, eccetera eccetera. Tu hai detto sì, c'è tutto il diritto di rifiutare una struttura per voler andare in un'altra struttura. No, io ho detto che no, sì. Hai detto questo. No, ma io ho spiegato, ho detto hai spiegato, però hai detto questo. No, ma aggiungo che è non hai detto questo. Sì, ma che ci vogliono anche dei menù speciali se uno ha particolari esigenze religiose. Ottimo. Possiamo adesso scatenare i quattro imbecilli no, che ma chiameranno, non c'è, ma non perché c'è problema. Imbecilli? Ma perché, li consideri imbecilli? Ma non è vero. Ma senti quello che no, demagoghi, ma non importa. Senza nemmeno sentire quello che hanno da dire, li consideri imbecilli. L'incontro li vedo, non sono tutti così comunque, non la pensano tutti così. No, ma io ti voglio far ascoltare un'altra cosa. Se uno è un musulmano, ad esempio, gli puoi dar da mangiare il formaggio o gli devi dare il maiale? No, ma per ti forza. Faccio ascoltare questa è roba curioso qui. Questo ti eh? Voglio far ascoltare questa roba qui. Un signore che si chiama Luca Guidi ed è responsabile di un centro di gestione profughi a Venturina in Toscana. Sì. È uno che lavora con alcune associazioni, non è Salvini, no, non bene, è Bonanno, non è Borghezio, che pare che domani, anzi no, pare, ha un processo a Milano alle 9.30, forse ci sarò pure io per alcune querele che ha ricevuto da associazioni Rom. Non è un leghista satanato, è un signore che si occupa di accogliere i profughi per delle associazioni. Bene. Allora, questo signore ti racconta quello che è successo a Campiglia, in una struttura Campiglia vicino Marittima, Campiglia. Toscana, certo. C'erano 15 persone, 15 ragazzi, che venivano da un centro, pare molto bello, molto attrezzato, a Trapani, e sono stati spostati, perché per fortuna si può fare anche questo, sono stati spostati appunto in Toscana. Senti cosa è successo. Quando sono stati qui hanno visto la nostra struttura, che c'ha un po' di, siamo aperti da due giorni soli, quindi c'ha un po' di stucco cadente, certo non è comparabile a quel campo lì sotto nessun aspetto, le camere non hanno ancora quantomeno la televisione, hanno cominciato a piantare delle grane rifiutando recisamente di prendere alloggio qui. Tutti. Che è un loro diritto. Tutti? Tutti e 15, è un loro diritto sacrosanto. Ancora. Sono stati informati dalla polizia correttamente che loro potevano prendere il trolley, se non gradivano l'alloggio qui, potevano prendere il treno che è qui a 10 metri e andare dove volevano liberamente come qualsiasi cittadino italiano, hanno i permessi di soggiorno. E lì hanno cominciato a dire no, sbagliando, no, lo Stato italiano ci deve portare dove noi diciamo, dove comunque è una struttura che a noi piace e deve essere la pari qualità di quella che abbiamo lasciato. Questo ovviamente è un'invenzione loro. Ma ti rendi conto o no? Ma ti rendi conto? Aspetta, non è tutto, non è finita. Ti rendi conto che cosa uno deve. Lo Stato come funziona? Dobbiamo sottostare a questi ricatti di questi signori che vengono qui e pretendono le camere di albergo come vogliono loro, con il wifi. Come no? Pretendono. Tutti. Ma lo senti questo qua? È che ovvio dice? Che questo niente, caso qui, che è un caso nemmeno. Curioso. No, ci credo e come. Senta, anzi, aspetta, è una bella. Aspetta. Ma è ovvio che fa notizia, aspetta, no? A fronte di tutti gli altri. Non è finita, non è finita. Stavano barricati nel bus, è arrivato fortunatamente il vicequestore e in una maniera molto africana di fare è venuto fuori che loro non gradivano questa residenza perché una volta i musulmani di loro non gradivano, abbiamo donne incinta qua, non gradivano mangiare nella stessa sala delle donne. Allora gli abbiamo detto ve le separiamo, non le vedete? No, perché comunque non c'è la wifi. La mettiamo, dateci tempo. No, perché non ci sono le stanze, in ogni stanza non c'è il televisore, dateci tempo. No, comunque ci dovete dare, non ci piace comunque. Tu ti rendi conto o no? Cioè, siamo alla follia. Questi, solo perché siamo in Italia e ci saranno associazioni, leggi che permettono di fare questo, perché altrimenti non lo farebbero. In un paese normale dice, stai qua, ti offriamo un posto, una camera, un letto, da mangiare, stai qua e non rompi i coglioni. Adesso questo lo aggiungo io ovviamente, no? Stai qui, gentilmente, ti accomodi e poi deciderai il tuo futuro come ti pare. No, è il wifi, la televisione, le donne non vanno bene. Ancora, senti. La proprietà di questo stabile, che ha un albergo più grosso, con una fila di mini appartamenti nuovi, indipendenti anche dal punto di vista della cucina, è stata approcciata dal vicequestore ed è stato deciso che ci dava la disponibilità di 4 appartamenti nuovi, di quelli lì non impegnati, non occupati, e allora abbiamo a questo punto preso i 2 capi della sommossa, li abbiamo portati a vedere se erano di loro gradimento, loro hanno trovato la cosa di loro gradimento, ci hanno ringraziato. Vabbè, no comment, va, qualsiasi commento sarebbe superfluo. Cambiando completamente argomento, amici della radio, popolo della radio, io vorrei fare questa trasmissione in realtà in Giappone. Perché vi dico questo? Perché personaggi come quelli che esistono in Giappone non esistono da nessun'altra parte. Fanno delle prove in televisione strepitose. Vorrei chiamare tutti quelli che fanno delle prove in televisione. Nei giorni scorsi ho visto un video che adesso è diventato virale, in cui c'erano 2 ragazze, non so se l'hai visto anche tu, sì, Parenzo. Sì, sì, sì, sì, due ragazze che con un tubo, dentro questo tubo c'è uno scarafaggio, una blatta, uno scarafaggio. E praticamente il gioco in cosa funziona? Nello sparare questo scarafaggio nella bocca della tua avversaria, nell'avversaria che ti ha di fronte. Ovviamente chi ingoia perde, ma non è che ingoi tipo una pallina, una cosa, no, uno scarafaggio ingoiato. E perde, cioè, muore più che altro. Beh, no, muore perché so evidentemente muore. Poi vomiteranno, non so che faranno. In Giappone, cioè, io vorrei intervistare questi qua, cioè i personaggi di questo video. Perché fai un gioco per soldi, probabilmente, dove si ingoia uno scarafaggio? Alberto da Padova, vai. Signor Cruciani, buonasera. Dimmi. Ti sente? Sì. Allora, io sono un ragazzo di 21 anni, mi sento di darle un consiglio. Dimmi, caro. Ascoltando la sua trasmissione, noto nella sua persona un continuo tono strafotente e di superiorità. Ma che è una dichiarazione questa, l'hai scritta? Che hai fatto? Stai leggendo no, un foglio? Non sto ascoltando leggendo la sua trasmissione. Beh, se l'hai appuntato, ha ragione, magari se no. Noto un senso di strafottenza, che poi appuntato. È una cosa nuova questa. Che lei qua, sta continuando ad avere anche in questo caso, ovviamente. Beh, non c'è dubbio, ma senza nessun dubbio, Alberto. Non c'è dubbio perché? Perché è un maleducato? Ma no, perché è un maleducato? Perché stai leggendo una cosa semplicemente per questo. Comunque, va bene, vai avanti, Alberto, vai avanti. Io non sto leggendo niente. Va bene, vai. Allora, la sua è una bella trasmissione, sì, ma il modo di rapportarsi con il radio con il radioascoltatore, sì, non è adeguato. Non è adeguato, bene. Ed è del tutto fuori luogo, okay? Fuori luogo. Punto. Poi a capo. Quindi le consigliamo solo di cambiare il modo di rapportarsi con le persone che chiamano. Sì, ma si avvicini di più, se no non sentiamo, è la radio questa qua, le voglio così fare presente che trattasi di radio. Se non si sente quello che lei dice, non si può nemmeno commentare. Vai, Alberto. Ecco, le consigliavo solo di cambiare il modo di rapportarsi con le persone che chiamano, anche perché le ricordo che l'educazione è alla base di tutto, insomma. Certo, quanti anni ha lei, scusi? 21. 21 anni. Ha messo giù il telefono ieri una persona di 27 anni, non so se lo vuole mettere giù anche a me. No, adesso. sto ascoltando, come dire, con molta attenzione, Alberto. Tu, Alberto, a 21 anni... Lei pensa di avere un tono gentile con le persone che chiamano? Alberto, le domande le faccio io qua. Hai 21 anni, giusto? Sì. 21 anni. Come ti è passato per la testa ad anni 21 di comporre queste tre righe, di pensare queste tre righe sulla mia strafottenza e di chiamare questa trasmissione? Sono molto curioso. Come ti è venuto in mente ad anni 21, voglio segnalare? Alberto. Qui segnalare e il commento sui 21 anni qual è? Ma non lo so, amico mio, ma di che stai parlando? Io ho un tono strafottente, sono fatto così. Se ti piace, bene. Se non ti piace, mi dispiace. Chiaro? Pronto? Va bene. Sì, cioè, non commento neanche perché lei continua con la sua maleducazione. Ma quale maleducazione? Ma dov'è la maleducazione? Ma dove la vedi? Beh, allora, lei tutti i giorni chiude i telefoni in faccia alle persone che chiamano. Ma a Padova sono tutti così, Parenzo? No. E continua ancora. È un maleducato lei? Sono molto maleducato. A Padova ci sono quelli che votano sono parecchio maleducato. Ci sono molto per bene. Se per lei chiudere il telefono in faccia alle persone... Ma quale io chiudo il telefono a chi mi pare? Non c'è democrazia qui dentro, c'è la dittatura, hai capito o no? È chiaro? Ah, ok, è un dittatore. C'è la dittatura, sì, è il dittatore di questa trasmissione. Esattamente. Quindi lei è d'accordo col signore di Casa Pound che ha chiamato ieri sera? Sì, il collegamento non lo colgo, veramente. Comunque, non sono d'accordo con nessun signore di Casa Pound. Sono tutti dittatori? No, io sono il dittatore di questa trasmissione e decido io come e quando si interviene, chiaro? I tempi, i modi, eccetera, eccetera. Chiaro o no? Sono i Mussolini della Zanzara, chiaro Alberto? E rapportarsi con gli altri? Rapportarsi con gli altri. Però la trasmissione se la fa lei da solo la prossima volta. Ma tu stai parlando tranquillamente, senza problemi, come parlano tutti, come Amalia dalla provincia di Latina. Ciao Alberto, Amalia, dimmi. Ma niente, Mario da Roma, dai. Dunque, io sono uno degli imbecilli che venivano raccontati da Parenzo. Cioè? Abito a Roma fra Ostia e Leur. Sì. 8 appartamenti nella palazzina, 4 sono abitati da cubani, sì, albanesi, Bangladesh, sì, e i Bangladesh stanno proprio vicino a me. Mm. Io ho fatto 3 denunce perché questi abitano qui dal 2009. Sì. Ho fatto 3 denunce. Questa è una pensione dove ogni 10-15 giorni arriva un gruppo di Bangladesh vestiti bene, bagagli, arrivano da Fiumicino, sostano 10-15 giorni, poi spariscono e ne arriva un altro gruppo. Nel frattempo, dal 2009, in Acilia sono stati aperti 2 ristoranti e un negozio etnico. Cioè, allora noi qual è il problema? Siamo dalla colonizzazione. No, ma scusi, il negozio etnico è ottimo, scusi, io posso criticare tutto quello che abbiamo ascoltato prima, che è una vergogna, ma il negozio etnico è meraviglioso. Dove sono aperti i negozi di indiani, di gente del Bangladesh? No, ma non ci siamo capiti, questi arrivano con il visto turistico. Dovrebbero portarsene a casa. Guardi, chi apre un'impresa commerciale, soprattutto tutta la notte, perché basta gli italiani rispetti le regole, ovviamente. Invece questi devono restare aperti tutta la notte. Io adoro le città dove ci sono negozi di alimentari, soprattutto aperti tutta la notte. Quello che non fanno gli italiani, questi lo fanno, e questa roba qui va benissimo. Non quello che abbiamo ascoltato prima, però, amici miei. Abbiamo con noi, caro Parenzo, uno dei principali sindacalisti del nostro paese. Per la prima volta alla Zanzara, voglio capire cosa ne pensa di Renzi, del suo governo, di tutte le riforme che sta facendo, della legge elettorale, non solo di Renzi, della politica del nostro paese, eccetera, eccetera. Uno che lavora da quando c'aveva 8 anni, dunque non è uno di quei sindacalisti cosiddetti fancazzisti, tutt'altro, ha lavorato, si è fatto un mazzo così. È siciliano, si chiama Carmelo Barbagallo. Buonasera, bene. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Come andiamo, Barbagallo, segretario generale della UIL, cioè il successore ormai da un po' di tempo del signor Angeletti, se non sbaglio, signor Angeletti, giusto o no? Sì, dal 21 novembre. Scusi, signor Barbagallo, ma è vero che lei fa la box o ha fatto la box in gioventù? Mio padre è stato campione di pugilato e io quando ero piccolo ho fatto un po' di allenamenti perché gli davo una mano in una palestra. Però niente di particolare, cioè non è diventato un piccolo campione, no? Però insomma, le piace ancora la box? Mio padre mio padre mi ha detto che non era cosa mia fare il pugile, perché non avevo la cattiveria di finire l'avversario quando era in difficoltà. Però, e questo ha fatto il sindacalista che difende sempre quelli che sono in difficoltà. Quelli che sono al tappeto, sostanzialmente. E di questi tempi ce ne sono moltissimi. Ma scusi, ma lo farebbe un duello con Renzi lei? Ce lo metterebbe KO Renzi? Avrebbe voglia ogni tanto di dargli di ricordarsi di quando faceva il pugile, di dargli un bel gancio? Come le ho detto, non sono per la violenza, però lo metterei KO dicendogli le verità che lui nega ogni giorno. Chi metterebbe KO lei oggi? Renzi, dicendogli le verità che lui nega, perché ci ha raccontato un sacco di storie. Di fatto ho detto che lui probabilmente deve avere il DNA con origine meridionale, siciliana in particolare, perché fa bene canta storie e sa fare il gioco delle tre carte meglio di tutti. Cioè, secondo lei è un pifferaio magico, come lo possiamo definire, Renzi? No, canta storie. Cioè, uno che ci racconta un sacco di balle, questa sì, è la una alla mattina, una a mezzogiorno e una alla sera. E poi lo fa a reti unificate e a giornali unificati, quindi è più bravo di Berlusconi da questo punto di vista. Dal suo punto di vista peggio di Berlusconi? Più bravo, ho detto. Dal suo punto di vista, poi, però peggio. Peggio o meglio dipende dai vari punti di vista, no? No, ma dal suo com'è? Peggio di... Cioè, ha fatto quello che Berlusconi non è mai riuscito a fare, dal suo punto di vista, o no? Sì. Per esempio? Per esempio una riforma del mercato del lavoro degna... Di Berlusconi? Del peggior liberismo internazionale. Addirittura? Addirittura. Cioè, peggio della Thatcher, peggio della di Reagan... Su quei livelli, come Reagan. Non lo metterei a quei livelli. Io ho sempre detto in questi mesi che lui farebbe bene ad andare a scuola da Obama piuttosto che dalla Merkel. Poi l'altro giorno ci è andato, ma si vede che non ha capito. Non ha capito. Obama sta investendo 1.000 miliardi di dollari da 6 anni per far riprendere la crescita negli Stati Uniti. E invece? La stessa Merkel sta dando il via libera al rinnovo dei contratti in Germania e aumenterà le pensioni a luglio del 2,5%. Vabbè, però noi stiamo con le pezze al culo, però, Barbagallo, a differenza di questi paesi, noi siamo un po' in un'altra situazione. Adesso io ho utilizzato un'espressione un po' forte, forse. No, ma il problema qual è? Che un paese che sta con le pezze al culo, gli si tolgono pure le pezze? Ah, lui dice, siamo con le pezze al culo e Renzi sta togliendo anche le pezze. Questa è buona, un'immagine piuttosto efficace, dice. Cioè, sta smantellando quel poco che abbiamo, no? Quelle poche. E poi è come dire che un lavoratore di una famiglia monoreddito che va in cassa integrazione deve pagare il mutuo guadagnando di meno. Sì. Il risultato finale qual è? Che non può pagare il mutuo e gli tolgono pure la casa? È quello che sta succedendo nel nostro paese. Siccome dobbiamo fare austerità e sacrifici, non si fanno investimenti e non possiamo pagare nemmeno il debito pubblico, tant'è che nonostante tutto aumenta, nonostante si sia perso potere d'acquisto dei lavoratori e dei pensionati, nonostante il pubblico dipendente non ha contratto da 7 anni e siamo in questa condizione, come vede. Però scusi Barbagallo, lei ci dipinge una situazione in cui gli italiani dovrebbero prendere il forcone e andare sotto Palazzo Chigi, cioè sotto Palazzo Chigi con i forconi, ritorniamo, forcone per favore. Io no, per sono, carità, perché? Siccome sono pacifista. Pacifista perché sono piccolino, per natura sono sempre stato pacifista. Lei dice che se non ci fosse anche per non prenderlo. Scusi un attimo, ma se lei voglio dire, non fosse pacifista, Renzi ci sarebbe da corcarlo di botte o no? Renzi bisognerebbe mandarlo a casa, è un'altra cosa. Ah, mandarlo a casa? Non c'è bisogno di picchiarlo. E chi ci metterebbe al posto di Renzi? C'è un bel rapporto con i sindacati. Sì, Renzi ha un rapporto molto stretto con i sindacati, vedo. Cioè, in particolare con Barbagallo. Al posto di Renzi, però, chi ci mettiamo? Cioè, lei dice, Questo è il vero problema di questo paese, che oggi non c'è alternativa. Ah, lei dice, non c'è alternativa al pifferaio. Tant'è che lui ha fatto un modello di legge elettorale... che gli può garantire con l'8% dei voti del paese anche di governare per i prossimi 5 anni. Ma scusi, ma lei è veramente la vera opposizione a Renzi qui? Cioè nessuno fa l'opposizione come fa lei, Barbagallo. No, forse perché dico le cose appunto, dice le cose papale insomma, no? Che le capiscono tutti. C'è una cosa che bisogna stare attenti. Sì. Il sindacato è quello che noi abbiamo fatto, una riforma organizzativa, sto andando in giro, fino a ieri sono andato in una fabbrica. Però scusi un attimo, ce lo dice dopo, ma io voglio capire, lei veramente pensa che ci sia un disegno autoritario di Renzi? Sì, mi sembra di capire di sì. Per come si sta comportando in un paese dove non c'è il dialogo con le forze sociali, con i corpi intermedi, c'è autoritarismo. Diminuisce la democrazia, non detto che c'è. No, no, ma approfondiamo questa cosa, perché molti dicono la riforma che sta facendo Renzi va, si va verso un modello autoritario, la dittatura renziana. A tra poco ancora con Barbagallo, fermi tutti. Cruciani e Paracuro. La Zanzara. Buonasera, buonasera, Lucci Romani alla Zanzara. Eccoci qui, cari amici, popolo della radio, la Zanzara, sempre con voi in diretta, 800 24 00 24. È con noi un personaggio mitologico, che dice le cose così, pane al pane, insomma, molto... Gente morta. Cosa? Morta. Che c'è, Grillo? Intervistate soltanto i morti voi. Ma scusi, Grillo? I sindacati sono fini, CCL, PPLI, PPUL, PCC, PUL, ma cos'è? Soltanto cioè, voi per lei i sindacati Confindu, sono morti, per lei ma sindacati... che è un disastro, finiti, Barbagallo, ma cos'è? No, ma Barbagallo, ma non si ho chiama, ma sei un cretino, ormai al servizio di chiunque, la Confindustria, il sindacato, è una radio morta, una radio che per... della Confindustria che ospita un sindacato, ma l'ho capita, ma è finita. È un mondo vecchio. Ma lei che ne pensa dei sindacati? Ci vuole, scusa, solo l'iPad, te lo spiego. Allora aspetta, aspetta. E beh, Barbagallo, ma è vero che aspetta, Grillo, aspetta, Grillo, Grillo pensa che voi siete morti, l'ha detto morti, più volte. Lei che... Ma lui che sta nel freezer perché ha congelato i voti dei grillini, come fa a dire agli altri che sono congelato? Morti? È rimasto congelato. Morto, congelato, sei dice morto, che... gallo, ma non ho capito. No, Barbagallo. Ma è un gallo, una barba assoluta di però, trasmissione non, finita. Non si preoccupi, deve scongelarsi. Ma se deve scongelare vuole, che vuole fare politica. Ma vi rendete conto? Ma che ne pensa lei di Grillo? Ma al di là di questo fatto qua. Io ho lavorato. Io pensavo ai grillini che sono persone intelligenti e c'era una stragrande maggioranza di giovani, sì, che invece... potevano dare il loro contributo. Forse dovrebbero anche loro eliminare questa leadership che gli fa soltanto del male. Ma sono venuti tutti per mandare a fare in culo questo sistema di potere, ma è evidente. Ma ora si intervista un gallo in una radio, ma Barbagallo, ma è morto, tutto un sistema finito. Va bene, l'ho capito, lei è intervenuta, adesso ha detto la sua, dai. Vai la concertazione, tu con l'iPad puoi no, fare la concertazione una io non l'ho mai sopportata, per no, carità. Ma con l'iPad fa tutto. Che la concertazione ce l'hanno fatto fare per farci fare sacrifici, ma non serve, sempre. Io non fai sono un tweet, non sono orfano della concertazione, io voglio fare contratto perché faccio sindacalista. È morto questo devo sistema, recuperare morto una cosa di poco fa. Io non sono opposizione di questo governo. Beh, e non sembra sono nemmeno a coscienza di questo governo. Adesso? Ma io non noi lo so. Non dobbiamo stare a essere. Ma noi chi? Ma basta un computer vicini alla politica e ai governi. Ma dobbiamo fare. Ho capito, ma lei mi sembra. Ma chi è che parla? Ma è finito questo mondo. Basta un computer per dialogare. A cosa non serve è, il sindacato? Con l'iPad, la videoconferenza, le stampante 3D. Monti, sta parlando come Monti che ma ci ha quale, detto ma Monti lo abbiamo detto, lo avete sostenuto voi Monti, siete morti, morti, ma che roba no, è? Ma è di che cosa parla? Si scongeli per favore, si scongeli. Ma... Senta, io voglio capire una cosa, a proposito delle pensioni per esempio adesso, il governo dice che non bisogna restituire a tutti, ma le pare normale? Allora... Prima cosa, e domani mattina i pensionati della UIL fanno una manifestazione vabbè, questo, davanti, vabbè, davanti al Ministero del Tesoro, sì, devono rispettare la sentenza della Corte. Okay. Renzi dice che non ci dice, la sentenza non dice che bisogna restituire i soldi a tutti. Lei che e dice? Allora, ma scusi, posso finire questo concetto? Sì, sì, sì. Se lui rispetta la sentenza, poi chiama il sindacato e discuteremo sugli arretrati, sulle fasce più alte, su tutto quello che vuole. Ma prima deve rispettare la sentenza e ridare soldi ai pensionati. Beh, appunto, e a chi li deve darsi i soldi? A tutti o no? In particolare a quelli che hanno una pensione di... tre volte il minimo, che sono a 1200. Vabbè, quello già l'hanno detto che glielo danno, eh. Oltre... Ancora non abbiamo visto niente, lo decideranno lunedì, stanno facendo vabbè anche qui il cantastorie e il gioco delle tre carte. Anche, anche su questo. Ne stiamo mettendo in piazza i nostri pensionati per spiegare pure che devono restituire il mal tolto. Bene. E una cosa per sì capire, perché molto dire le pensioni quelle alte, parlano delle pensioni che sono state costruite senza i contributi, quelli sì che le devono addirittura togliere, oppure quelli dei parlamentari sì, sì, che hanno vitalizio e quant'altro. Ah, quello togliere i vitalizi a tutti i parlamentari, lei toglierebbe a tutti? Devono toglierle a quelli che hanno gli abusi e che hanno doppie e triple pensioni perché hanno fatto doppie e triple. Ma ho capito, quelli che hanno doppie pensioni perché dei vitalizi, perché hanno fatto sia il consigliere regionale, sia il deputato, eccetera. Togliere il doppio vitalizio. Appunto, visto che parliamo di voler fare delle cose. Ma lei diciamo la verità, Barbara. Aspetti un attimo. Sulla sentenza della Corte Costituzionale. Vabbè. La cosa strana, sai qual è? Qual è? Non daremo i soldi a quelli che hanno 10.000, e per me starebbe pure bene che hanno 10.000 euro di pensione. Sì. Però quelli, siccome hanno 10.000 euro di pensione, hanno la possibilità di pagare gli avvocati per far rispettare la legge che viene fuori dal consulta. Meglio, quindi meglio. Pagheranno lo stesso. Alla fine pagheranno lo stesso. Dice ha ragione, questo è vero. C'è ragione. No, ma senta un attimo, a proposito di ancora di Renzi, lei una volta disse che addirittura Squinzi, qui lei può parlare liberamente, non si preoccupi, come considera la Confindustria? Una volta disse che era lo Zerbino di Renzi, addirittura. Squinzi, per me è il peggior presidente della Confindustria che ci sia mai stato. E che ha fatto, povero Squinzi? Non ha fatto niente. Ma dai, su. Ma qui lei a casa di Squinzi, abbia un po' di rispetto. Ah, ma come? Prima mi ha detto che posso parlare, posso dire ma tutto sì, quello che questa voglio. Ora, e ora mi dice abbia un po' di rispetto, ma perché voi siete una radio che è solo 24 ore. No, lei può dire, ma lei può dire quello che vuole. Lei può dire quello che vuole. Allora me lo faccia dire. Lo sto dicendo. Io sto rispondendo. Che cosa si può dire che è un tantino? Ma perché è peggiore? Che ha fatto di male? Che disastro per ha fatto? Per me, ho detto, è un'opinione personale. Ma che ha fatto di così disastroso? Non ha fatto niente. Come se, mi dovrebbe spiegare perché la Fiat è uscita dalla Confindustria. E vabbè, quello è mica dipende da Squinzi. Questo dipenderà da Marchionne. No, dipende da tutto un processo che ha portato all'uscita della Fiat. Ma non è per questo che lei dice che è pessimo. Dice non ha fatto niente. Vabbè, è il peggiore presidente della Confindustria. Questa è la sua opinione, la rispetto, per carità. La rispetto assolutamente. Che siccome ci deve essere qualcosa personale, però ci deve essere qualcosa personale. Quanti iscritti c'ha? Guardi, manco lo conosco, quindi si immagina che ma cosa appunto, manco lo... allora, che cos'è che la spinge a dire così? Non ha fatto niente. Dicendo, ma guardi, le posso dire, noi da 3 mesi abbiamo prodotto un documento con un nuovo modello contrattuale. Vabbè, ma quella è una cosa lunga per noi. È una cosa complessa. Vabbè, al primo punto, per fare riferimento agli aumenti salariali, abbiamo messo la scommessa con la crescita. Cioè abbiamo messo di senta, legare Barbara, io voglio sapere una cosa, ma lei gli aumenti al PIL. Va bene, ma d'accordo, al PIL. Quindi doveva essere Squinzi a fare questa proposta. Vabbè, ma lasciamo perdere, quelle sono contrattazioni, non sappiamo niente di queste cose. Senta una cosa, io le voglio chiedere una cosa, ma insomma, ha fatto scordare una cosa. Ma secondo lei bisogna prendere pillole per la memoria. Questo è vero. Ma scusi un attimo, ma secondo lei le prostitute sono delle lavoratrici? Perché non esiste un sindacato? Fate una bella cosa sulla legalizzazione della prostituzione, Barbagallo, sarebbe interessante anche per portare un po' di soldi a questo paese, no? Guardi, ci ho pensato molto in questo senso. E comunque diciamo lei è a favore, sì. Io sono a favore del fatto che paghino le tasse, per esempio. Oh, perché benissimo. In questo paese evasori fiscali ce l'abbiamo a bizzeffe, 130 miliardi di evasione fiscale, 60 miliardi di corruzione. Appunto. Per e cui... poi dicono, dove prendiamo i soldi per risanare il deficit pubblico? Cominciassero a prendere di lì, però purtroppo sia gli evasori che i corrotti e i corruttori votano. Che fanno? Votano. Votano. E chi votano di solito, secondo lei, queste persone qua? A quanto sto capendo è in maniera trasversale, votano a chi gli pare. In questo momento votano Renzi, magari, no? Non ho idea. Ma lei chi vota, Barbagallo? Voto è segreto, io sono di sinistra. Lei è di sinistra, ma voterebbe per questo PD? Ma faccio il sindacalista. Ma lei, per questo PD voterebbe da uomo di sinistra? Per questo no, sceglierei le persone su cui concordare che tipo di programma possono avere. Sì, ma per questo PD non voterebbe, mi sembra di capire, o no? No, questo Renzi non potrebbe. Per questo Renzi non potrebbe. Lei è di sinistra, ma per questo Renzi non potrebbe. Per questo Renzi con la R siciliana. Ma Landini. Sì, io ce n'ho 3 perché non sono generoso. quelli che sono tischi ne mettono mezza. È la R siciliana, ragazzo Renzi. E quello che bellissimo. È toscano manco mette le consonanti. Senta, Barbagallo, ma allora lei è a favore della legalizzazione della prostituzione? Questo è interessante come cosa. Cioè, lei farebbe i bordelli. No, no, già li hanno fatti. Dove l'Italia è piena di bordelli, anche se non ufficialmente non ci sono. Ma in senso, come dire, in senso lato? Io vorrei che si trovasse un modo come far emergere anche il lavoro nero in questo senso. Vabbè, tassare le prostitute, benissimo. Però riaprire le case chiuse mi sembra una buona idea. A me, io sono favorevolissimo. Ma se non si riescono ad aprire le scuole chiuse, come facciamo a riaprire le case chiuse? Senta, invece la legalizzazione della droga e le droghe leggere è fantastica. I sindacati dovrebbero fare una grande battaglia. Lei se ne è mai fatto una canna? No. Mai, purtroppo, eh? No, manco fumo, guardi. Manco fumo, va bene, cannetta. Essendo figlio di proletari non avevo le possibilità. Sì, questo è vero, all'epoca non si vuole. Comunque, guarda, allora mi sembra di capire che lei ti ragiona a Saviano, no? Che dice che c'è Gomorra nel PD in Campania, per esempio. Cioè, tra Saviano e De Luca, lei con chi sta? Guardi, sto in questo senso con Saviano, perché sì. Io ho fatto delle battaglie di legalità quando... Lo so benissimo, quindi, per questo glielo chiedo. No, non mi può fare una domanda che... Gliela faccio, può. Appunto. La risposta può essere solo banale. Cioè, lei vive con la scorta, si sa, però... Vive con la scorta. No, io ho avuto la scorta pesante quando ero in Sicilia, perché ho avuto anche... delle attenzioni particolari. Sì, da parte questo dei, lo sapevo. Dunque, tra Saviano e De Luca, insomma, tra Saviano e il PD, in questo momento Saviano che dice che c'è Gomorra nel PD in Campania, lei dà ragione a Saviano, mi sembra di capire. Sì, perché ha fatto pure il nome e cognome di qualcuno, quindi che degli cosa impresentabili, devo dire? No? Appunto, ma in questo momento, secondo lei, nel PD ci sono molti impresentabili, Barbagallo? In quel luogo sì, a quanto ho capito. Gli elenchi che sono stati fatti da Saviano, lì sì. Senta, ma Civati le piace? Uno come Civati le può piacere? Come atteggiamento così ribelle, è andato via dal PD, c'ha se mi vuole portare a dire che voglio fare l'opposizione al PD, non ci casco. Vabbè, tanto la sta facendo. Io non faccio l'opposizione al PD, così come non faccio l'opposizione al governo. Senta, non sono manco con la maggioranza, né del governo né del PD. Ma questo si era capito. Faccio il sindacalista. Quando Renzi dice che sono aumentati i posti di lavoro a tempo indeterminato, è un gioco delle tre carte pure quello? È una balla? Sì, è riciclaggio di posti di lavoro. Riciclaggio, non di denaro sporco, ma di posti di lavoro. Bisogna dire che lei ha la battuta pronta, questo non c'è dubbio. Da questo punto. L'ho, diciamo, allenata facendo monologhi di 2 ore all'assemblea della Fiat di Termini Imerese. E per Salvini vincerebbe, voterebbe mai lei? No. No, per carità. Lo considera un pericoloso razzista? No, non lo considero adeguato a quello che serve al paese. Però non potrebbe essere definito, razzista, sì, potrebbe no. essere definito più a sinistra di Renzi, quasi, o no? Su questo non ci sono dubbi. Addirittura. Perché alcune cose che riguardano, lo fa anche per campagna elettorale. Però dice... Guardi, le posso dire una cosa? Mi dica, lo so mi dica. Perché Renzi la riforma del mercato del lavoro l'ha chiamata in inglese? Perché l'ha chiamata in inglese? E perché in Inghilterra la circolazione è a sinistra ma la guida è a destra. Senta, Barbagallo, un'ultima cosa, ma è vero che lei ha messo qualche parente a lavorare alla Will? Leggo qua, Will tra mogli, figli e congiunti, ecco la parentopoli. Sì, sì. Ma lei pensa che ci metta qualcuno della parente della Camus eventualmente alla Will? No, beh, ho capito, ma pare che suo figlio lavori in una società che è di area, cioè della Will, là come si chiama? No, non è così. Fondo Formantep. Formatempo. È informato male, è della bilateralità, quindi di tutti. Vabbè, però di tutti, però c'è anche la Will dentro. Certo, tutti ci cioè, li nomina la Will, diciamo, i anche suoi. La Will li no, nomina. No, non si nomina niente, non c'è per nomina, c'è come vengono assunti tutti gli altri lavori. Vabbè, ma è un po' una parentopoli, come dice il fatto, o scrivono cazzate? Scrivono cazzate, perché questa non è parentopoli, perché non si ha presenza di posti di lavoro pubblici che sono stati abusati come è stato fatto nel passato nella politica. Beh, ma con che soldi vengono pagati? Liguarelli. Guardi, non c'è bisogno di querelare, perché non c'è bisogno manco, non c'è il capo di accusa. Ah, non esiste. Ma scusi, il capo i dipendenti di questi enti. Hanno detto soltanto che i miei figli lavorano lì, bene. Beh, ho capito, però i suoi figli lavorano lì. Meno male che non fanno i camorristi e non fanno i mafiosi. Vabbè, quello che c'entra, però, se sono nominati in un ente dove comunque la Will. Non sono nominati, devono essere assunti come tutti gli altri. Vabbè, assunti, se sono assunti in un ente dove la Will mette becco, vuol dire in qualche modo c'è un conflitto di interessi, ci potrebbe essere. Non c'è conflitto di interesse, il conflitto di interesse è su, e l'ho detto al congresso dei giornalisti, sì. Oggi il conflitto vero di interesse del nostro paese è sulla editoria. Vabbè, quello certo, ci può essere. Gli imprenditori stanno contemporaneamente nei consigli di amministrazione delle aziende, delle banche e dei giornali e dei mass. Dunque, lei dice: non ci rompete le scatole con queste piccole cose, no, che riguardano i miei figli. Vabbè. Barbagallo, la saluto, grazie, grazie. A presto. Prego, buonasera, a presto. Grazie a tutti voi. A risentirci. Grazie per la cosa che ha detto su Squinzi, ci sarà molto utile qui alla Zazzara. Grazie. State attenti perché potrebbe crearvi qualche problema. Grazie, arrivederci, grazie. Sì, ma dai, fatti bravi, fatti bravi, fatti bravi, fatti bravi. La Zanzara. Dopo una siringata di Barbagallo, amici miei, un simpatico signore che, come avete sentito, è uno dei capi dei sindacati italiani, sparare a zero contro tutto il mondo, Alessandro da Bergamo. Vai Alessandro, vai. Sì, buongiorno. Dimmi, dimmi. Volevo salutare Parenzio, quel grandissimo simpaticone di Parenzio. Sono buonasera un Alessandro. Bergamasco. Buonasera Alessandro. Immigrato. Oh. Vai immigrato Alessandro, vai, vai, vai diretto, vai. Sono immigrato a Brescia, non ho una casa, non ho un lavoro, sì. Non ho un posto dove stare. Volevo sì. chiedere a Parenzio se mi aiutava. Sì, può rivolgersi ai servizi sociali. Vuoi una casa con wifi? Se Parenzio ce l'ha, volentieri. Parenzio però non abita a Bergamo. Il tema non è questo. Ma lo raggiungo, non è un problema, lo raggiungo. Il tema non è questo qua. No, il tema è la vergogna che abbiamo ascoltato prima. Il tema è la vergogna che abbiamo ascoltato prima. Il tema è quando arrivano qua questi migranti che tu per ragioni di umanità, per diritto internazionale anche devi ospitare. Sì. Allora cosa devi fare? Anziché dargli vero, le schede quando uno arriva qua avrà dici. Il diritto. Beh, intanto c'è un diritto internazionale che regola i rapporti tra gli stati nei respingimenti. Questo è la prima. Non è così. È la prima. Sì, sì certo che c'è, ma che vuol dire? Esiste un diritto internazionale. Non nessuno ci obbliga a prenderli, guarda. Secondo, sì, beh, insomma, come no, c'è un no, trattato che nessuno non dobbiamo, ci obbliga che non a prendere le persone. Qui dell'Unione Vabbè, Europea, allora forza, che va cambiato, allora... ma non importa. E l'altra grande questione è questa: davvero il problema è il wifi per i migranti? No. Cioè dare la possibilità loro di chiamare a casa? Ascolta quello che hanno detto. Ma quello magari che hanno detto sono incredibile, incredibile. Bene, ma esiste una questione: è giusto dare a me non me ne frega. Se c'è il wifi, bene. Se lo chiedi, wifi? Te ne vai a fare in culo. Chiaro? Wifi, non mi interessa. Non mi interessa. Dagli la possibilità di telefonare a casa, visto che sono venuti qui senza una lira perché hanno speso quei 4 Ma tu sei incredibile. Questi hanno rifiutato un albergo perché non c'era il wifi. Ma di che stiamo parlando? No, se c'è già il wifi, no. Siamo d'accordo. Certo non glielo tolgo, no? Se già c'è il wifi. Ma infatti, poi dopo telefono, se l'albergo non c'è, dice, ah, ma gli avete dato. Ma perché anche devi pensare telefonino? Sempre all'idiota che chiama? Pensa a quello che dici tu, non all'idiota che chiama. Loro pensano che io sia un idiota per quello ma che sostengo. Loro io chi? Ma loro chi? Beh, alcuni chi? Di questi che chiamano. Ma chi stai parlando di cose che non esistono? Non esistono quelli che chiamano? Ma dai, su, Davide. No, ma non capisco, non esistono quelli che chiamano i miei attaccano su questo tema, esistono. Vabbè, loro mi considerano un idiota. Ragazzi, il punto è molto aveva chiamato un il signore, punto... non idiota, no. simpatico. Alessandro ha detto questo. Una cosa, non ha nemmeno finito Alessandro, di dire. Infatti Alessandro, era civile, allora rispetto che volevi a dire? Parenzo, lui è civile. Volevo sapere se avevi anche Parenzo, il massaggio. Parenzo, sì, ci siamo dimmi, capiti. Dimmi. Avevi anche l'idromassaggio? No, io a casa non c'ho l'idromassaggio. Peccato, a casa mia non ce l'ho, ma insomma posso metterlo in non futuro, fai per no, me non mi interessa. È un immigrato, vuole anche l'idromassaggio, Alessandro, non ce l'hai. La battuta è divertente. Deve andare stare, in un altro centro. Ciao. Ed ecco con noi, dopo un sacco di tempo, Filippo Facci. Buonasera, ciao Filippo, come stai? Buonasera, ciao. Beh, sono molto contento, devo dire, di risentirti. Ma ce l'hai i soldi da dare a Fedez? 100.000? In banca ce li hai o no? Proprio fisicamente, questo voglio dire. No, non ce li non ho. Non ce li hai. Ma... cioè, se dovessi perdere, come fai? Ma se anche ce li avessi, piuttosto mi faccio evirare, piuttosto che dargli a uno come Fede. Beh, amico mio, però lo sai i tribunali, i tribunali come sono, è rischioso. No? Sai i tribunali. Temo di saperlo, visto tutte le querele che ho avuto, eccetera. Penso che nel giorno in cui ho appreso, perché di questo stiamo parlando, sì. La querela del bimbo minchia Fede, sì. Mi ha querelato per un violinista dell'orchestra di Santa Cecilia, cioè proprio ormai... Cioè, ti ha querelato pure il violinista dell'orchestra di Santa Cecilia? Sì, sì, sì. E perché? Insomma, uno dei... Ma perché avevo scritto qualcosa del suo stipendio che secondo lui, non lo so, non ho neanche letta la querela. No, però Fedez si dice una cosa, Fedez si dice: io per far valere le mie ragioni in un paese civile, siccome mi hanno diffamato, hanno detto che sono un fomentatore di disordini, un fomentatore di black bloc, l'unico modo è farlo in un paese civile andando in tribunale. Ora, ragionando su questo, su chi ha detto questo? Ah, sì, ha detto questo, sì, sì, detto? Ha detto su Twitter, dappertutto, cioè ha scritto proprio così. Ha detto l'unico modo per eccolo qua, guarda, è l'unica soluzione che ho per poter dimostrare che i loro articoli erano falsi è quello di avvalermi dei mezzi che mi mette a disposizione la società civile. Qui c'ha ragione. In questo caso la querela per diffamazione e minacce. Vabbè, ma certo, allora se con questa metrica allora potremmo regolare tutti i nostri rapporti, tutti i contraddittori del mondo con le querele. Beh sì, una società matura, soprattutto detto da un rapper. Capito? Vabbè, non è che i rapper non possono andare in tribunale, adesso faccio un po' bastian contrario. Vabbè, non è vietato, capito? Però suona strano, cioè voglio dire, un rapper, un duro che va per avvocatini, fa la querellina, è come lo scritto, è come un pugile che prende una castagna sul naso, allora ti denuncia. Cioè uno si aspetta, cioè negli Stati Uniti si sparano i rapper, qua ti fanno la querella. Beh, meglio, però io voglio, cioè, chiariamo una cosa, no, perché c'è anche chi mi ha detto: ah, ma che ti stai a occupare di sto rapper per bambine, sì, ma che mi scadi, eccetera eccetera. No, qualcuno allora, se l'è presa con te perché hai detto femminucce, rapper per femminucce. Vedo che su Twitter qualcuno ti dice: come hai usato la parola femminucce, rapper per femminucce. Sì, sì, per bambine, per essere precisi. Beh, quello voglio dire, ma hai mai sentito la musica di Fedez? Io preferisco, no, francamente poco. Tu parli da musicologo. A me tra l'altro piace Fabri Fibra, ti dico solo questo, per cui insomma mi piace il rapper che sembri vero, però cioè tu dici è un rapper finto. Ma sì, è di plastica, dai, è una cosa, probabilmente anche i tatuaggi vai lì e vengono via, insomma, è un rapper per bambine, dai, basta vedere. Insomma, cioè tu dici si è costruito, ma un rapper va, voglio dire, a fare il giudice in televisione, cioè l'immagine del rapper per come l'abbiamo sempre conosciuta, sì, in tutto il mondo, è un'altra questa cosa. Cioè non fa carriera in TV a prescindere dalla musica, questo vuoi dire? Ma insomma, l'abito non fa il rapper persino qui, voglio dire. Comunque voglio chiarire che se io sono qua ridotto a parlare di come Fedez, non è perché appunto sono così ridotto male, ma è perché è lui che ha sconfinato. Lui vende dischi, sì, chiariamo. Lui può vendere i suoi dischetti e oggigiorno sappiamo che tutta una serie di, molte virgolette, artisti, e allora deve sconfinare, parlicchiano di politica, in passato disse che era vicino a Grillo, ma faccia pure, che me frega a me. Ma nel momento in cui, mentre a Milano ci sono dei signori che stanno lordando e danneggiando il giorno prima che venga messo tutto a ferro e fuoco, facendo le prove generali di quello che sappiamo che è successo il 1° maggio, e lui dice: ah no, ma non sono... non sono danneggiamenti, sono proteste. Sì. Ah, ma si preoccupano del cioè non si preoccupano della mafia, non delle infiltrazioni mafiose, ma di qualche muro sporcato. Allora gli dico: ehi, bambino, bimbo minchia, piano, perché con questi ragionamenti negli anni 70 sono sorti quelli che erano i cattivi maestri, e tu stai dimostrando un cattivo studente, perché allora con il benaltrismo che hai dimostrato, quello di rispetto alle infiltrazioni mafiose eccetera, è come se io vengo lì, ti do tre sberle e altro che sberle a Teso Milano, e poi ti dicono: vabbè, ma che sono tre sberle in confronto alla fame nel mondo? Il ragionamento è di questo livello. Io sono sceso a questo livello per parlare col tipo. Vabbè, ma io che cosa ti contesta? Il fatto che è libero, tu è libero? No, tu è libero, avreste... In effetti oggi, per esempio, nell'articolo di oggi che hai scritto, a pagina 10 di Libero, il titolo, che non fai tu ovviamente, è questo: il rapper che ha giustificato le devastazioni dei No Expo. Ora, francamente, io sono ferocemente contro quello che ha detto Expo sulle cose imbrattate. Cioè imbrattare che poi lui ha pubblicato su Twitter l'elenco degli edifici imbrattati con le aziende, e ha detto: questa è protesta, non è teppismo, non mi ricordo. Ah, ho capito, cioè se io rompo una vetrina, non è vandalismo, di non una banca, e a fianco invece c'è, non lo so, questo ed è aberrante, cioè quello la, che ha la Caritas, allora uno è un danneggiamento e l'altro è la però lui non ha sobillato le proteste del giorno dopo, le devastazioni della città. Adesso io non so chi gliel'abbia attribuito, perché queste sono cose giudiziarie, ma secondo te lui è uno di quelli che in questo modo ha giustificato le violenze del giorno dopo? Ma lui non è che può giustificare il giorno prima quello che accadrà il giorno dopo, perché non è mica Nostradamus. Però quello che è successo il giorno dopo è una differenza di grado, ma non di tipo. Mi spiego? Cioè, non è che erano completamente delle altre persone, perché hanno appurato che il giorno prima, per quanto ben mimetizzati, cioè è un istigatore dei violenti o no? Block. È un istigatore dei violenti o no, secondo te? È un istigatore di sì, anche dei violenti. È un istigatore di qualcosa che forse lui non sapeva che fosse violento, e perciò è un incosciente che merita tre sberle. Io non penso che lui volesse. Beh, sicuramente ha commesso ha fatto un comportamento illegale. Allora, sporcare un muro. Sì, no, ma io su questo, sin dal primo giorno l'abbiamo detto, quando uno scrive. No, ma lordare un muro è un reato. Questo è sicuro, però io non è che mi indigno, no, senza, oddio, sporcano un muro, faccio un casino nazionale. Però non capire che la differenza tra chi il giorno prima comunque rompe delle vetrine, lorda tutto e lancia i sassi, perché è successo questo il giorno prima, con i black block mimetizzati, lo sapesse sì, o meno il signor Fedez, e il giorno dopo, perché notava, erano e notava anche il prendere dopo le distanze, avevano, dici. Esatto, ecco, il giorno dopo poi si ritrova che, vuole dire, lungo le stesse strade spaccano tutto, beh, insomma, è come dire, è la prosecuzione di un percorso, che poi sia degenerato. È un altro, cioè, lui dice conto, che voi Libero, tu e altre persone, tra cui Porro, lo avete considerato come un istigatore dei violenti, cosa che lui non ha mai fatto, perché non ha mai approvato le violenze dei Black Bloc, le macchine che bruciavano, eccetera. Io non ho mai scritto niente di quello che lui ha detto dopo il primo maggio. Io mi sono fermato a quello che lui ha detto il 30 aprile e l'ho anche spiegato. Vabbè, questo poi ve la vedete in tribunale. Anch'io penso, no, ma assolutamente, ve la vedete in tribunale. Anch'io penso, comunque, da questo punto di vista, la penso come Facci, che andare in tribunale addirittura per quella che viene chiamata una campagna denigratoria, adesso questo francamente no, sì. Ma poi voglio dire, questo se la tira come a Edo della libertà di espressione, capito? Poi alla prima cazzata il grande rapper di 25 anni ti porta, ti fa la querelina che tra l'altro non invita alla composizione, cioè serve per fare soldi, non è tra l'altro prende soldi da grande aziende, prende soldi da grande aziende, ma sì, ma infatti, ma voglio dire, sti cazzo di rapper dalla pasta asciutta, dai, ma che roba, no, rapper Denoantri si dice, rapper Denoantri, ma sì, scusa, ecco, alla matriciana, ma se mi avesse detto facciamo a cazzotti, brutto, era meglio, ma era più da rapper, io ci stavo pure. Cioè, ma sì, andiamo, prendiamoci a cazzotti. Che scuola abbiamo? Voglio dire, di rapper. Saluto Livorno 7. Aspetta, Livorno 7 in diretta, che mi dice di salutarlo. Livorno 7, tassista di Roma. È un amico mio che mi dice: saluta Livorno 7, salutiamo Livorno 7. Senti, ma tu, se dovessi scegliere di andare a cena con Fedez o con Gasparri, con chi ci vai? Con Fedez, perché non lo conosco. Voglio dire, però andresti a cena, ci andresti a cena. Andiamo, facciamo una cosa, fai un appello a Fedez, andiamo a cena e risolviamo tutto. E paghi tu? Beh, pago io, adesso non so più. No, io non ci vado a cena. Non ci vai. Ma che me frega a me, voglio dire, un uomo, cioè, poi tutto pittura, ma che è brutto. Beh, pittura, che poi è brutto, dice brutto Fedez, è brutto, eh? No, non è brutto, è un bel ragazzo. Hai detto pittura. Però sì, no, ma infatti ho detto una stronzata, capita, comunque a seguito della stronzata che ho detto, secondo me domani non succederà niente. Senti, dire. Un'ultima cosa ti voglio chiedere, ma che non c'entra niente con Fedez, ma sì. I servizi di Mediaset taroccati di Quinta Colonna, là di Benelli, come li consideri su questa vicenda? Brevemente, 30 secondi, ti prego. Che li hanno ha ragione beccati. Lerner che la colpa non è sua di questo tizio, ma della trasmissione, di un sistema, di un modo di fare, ed lui è un capro espiatorio oppure no? Boh, guarda, chi si fa beccare è colpevole, quindi la colpa è di questo. Incolpare la struttura non è roba per me, ma è roba per il Lerner e chi tende a vedere le cose sempre da un certo punto di vista ideologico. Però, insomma, sì, in effetti questo un po' di pena me la fa. Va bene. Perché comunque, cioè, davvero, cioè, se avesse portato cose buone più giornalisticamente valevoli, gli avrebbero detto, ma che ce frega, portaci il rom che dice le cazzate, e lui gliel'aveva portato. Così funziona. Ciao, a presto, ciao. Ciao. Ciao. Spettacolare. State ascoltando un programma offerto da AET Italia, l'energia elettrica per imprese e reseller. Visita il sito aetitalia.net. La Zanzara. Ascoltando la sua trasmissione, noto nella sua persona un continuo tono strafotente e di superiorità. Cioè, ha 21 anni questo, capito? A 21 anni si esprimeva in questo modo. Oh, ti ripeto, fatemelo risentire, vi prego, perché a suo modo è un genere. È un genere. È un maleducato lei? Ascoltando la sua trasmissione, noto nella sua persona un continuo tono strafotente e di superiorità. E dopo aver salutato, qual era il tassista di prima? Livorno 7. Adesso ragazzi, però non mi tormentate queste cose, io voglio bene tassisti, però devo qualcosa all'amico Sierra 41 a Milano, un grande, ti abbraccio. Vabbè, ma è diventato ho capito ragazzi, adesso 6969 35 per un secondo Sierra 41. Ascoltatori, vabbè, allora anche Palermo 4. No, ma che c'entra adesso? Non esiste Palermo 4. In quale città poi? Dai, su. A Roma, Palermo 4. Ma non esisterà, dai, basta. Come? Con queste storie. Stefano da Cremona. Stiamo degenerando, ecco, appunto. Stefano da Cremona, vai. Ciao, buonasera Cruzzani, buonasera Parenzo. Mi sento un po' l'eco qua. Ma allora, vai, Stefano, vai. Allora, fighissimo sentirvi al telefono, vi ascolto da anni ormai e siete un po' il mio Batman e Robin. Comunque, allora volevo parlare un po' di barconi e cose del genere, ma si parlava di fede e degli sconti, quindi mi permetto di cambiare discorso. E ciò che non mi piace, cos'è? È che voi fate gli indignati, gli scandalizzati per questi scontri. Per gli scontri. Ma gli scontri di cosa? Del primo maggio. Ma ancora così scontri del primo maggio? Io le chiamerei 14. Ma non c'è nessuno scontro, purtroppo. Secondo me. Perché la polizia, purtroppo, non ha caricato. Purtroppo, dico io, purtroppo. Sì, ma infatti è una scenetta, se ci pensi. Cioè, ma non so se sia una scenetta, come dicono tutti, perché vengono da fuori e dunque è un mistero che possono fare quello che vogliono, la polizia li lascia fare. Io ho visto banche devastate, macchine distrutte, eccetera, eccetera. Ma è giusto, se ci pensi, da un certo punto di vista. Ma è giusto cosa, scusa, Stefano? È giusto fare un po' di casino, no? Un po' di bordello. Cioè, da nessuna... io spero che tu stai scherzando, ovviamente, no? Ma no, non sto scherzando. Cioè, l'importante è che non si è fatto male nessuno, no? Però, cioè, è giusto distruggere le banche. I poliziotti si sono fatti male. È giusto, 12. A parte che ci sono alcuni feriti, ma insomma, 12. Tu penserai che non è niente. Vabbè, è vero, ma dicono, no? Lo dicono. Ma non ho capito, incendiare una macchina è legittimo, secondo te? Bisogna dare un messaggio forte. Bisogna dare quindi l'incendiare la macchina è un'immagine forte, appunto, che attira attenzione. Comunque, sì. Cioè, le rivoluzioni non si sono mai fatte d'accordo con gli organi preposti, come il. Ma perché tu quei gentili signori in tuta nera col volto coperto li chiameresti rivoluzionari, quei signori lì, eh? Come tipo... No, infatti. Hanno un po' il problema di manca il messaggio finale. Ma e quale, però quale dovrebbe fare quello che voglio? Quale dovrebbe essere il messaggio finale? Tu ci stai perculando, ci stai pigliando per il culo. Io sono sicuro che tu, da Cremona, Stefano, quanti anni hai? 24. A 24 anni non puoi pensare cazzate simili. Cioè, francamente, non le puoi pensare. Vabbè. Però anche tu, quando continui, Cruciani, scusami. Fermi tutti. Che è successo? Palermo. Allora, Palermo 4 intanto esiste perché me l'hanno segnalato. Incazzato nero perché tu hai detto, ma chi se ne frega? No! E sta, sì, arrabbiato. Vabbè. E sta portando peraltro tre persone, cioè Giovanni Benincasa. Figurati. Appena scritto dal taxi, ma facendosi il Palermo 4, facendosi la foto. Ma non è Giovanni, Palermo, non è possibile. Dai, è non così, è... Valdo Gamberutti e la fidanzata Giulia sono tutti e tre su Palermo 4. E chiedi scusa adesso. Non ci credo. Palermo 4. Mandatemi la foto. Mi hanno mandato la foto. Ora me l'ha mandato. Mandatemi la foto, non ci credo. Non mandatemi la foto. Non ci credo che esista Palermo 4 e non credo. Sì, forse esisterà. E non credo che in questo momento ci siano amici nostri me sopra. Ma mandato Palermo adesso! E rimandamelo. Te lo giuro. Ma eravamo con Stefano da Cremona, che mi sembra uno. O ci sta pigliando per il culo, oppure dice delle cose fuori di testa. Cioè, tu pensi davvero che per dare un segnale sia necessario spaccare, incendiare, scrivere sui muri, eccetera, eccetera, Stefano? Beh, forse sì, cioè se ci pensi. Ma forse storia, sì o no? Non forse. La protesta. Vabbè, ma dai, tu... non è mai stata pacifica, non può essere tranquilla. Ma lei era lì a devastare o no? Sei andato a devastare anche tu o no? Era lì o no a devastare? No, non sono andato, purtroppo. Io ero andato a Cremona. Aspetta un attimo. Black Block. Ecco alcune informazioni al riguardo. E poi esistono tutte le informazioni che esistono, Black Block, se tu vai su Siri, ecco tutte le informazioni al riguardo. Aspetta un attimo. Secondo me non si auto. Aspetta. Black Block sono stronzi. Non è carino da parte tua. Ma no, ma è carinissimo dipende, invece allora, è carino, è giusto. I Black Block sono delle teste di cazzo. Se potessi, arrossirei. Ma no, ma rispondi sempre allo stesso modo, non c'è da arrossire. I Black Block sono dei violenti devastatori figli di puttana. Sto solo cercando di aiutarti. Sì, ma non è vero, ho capito. No, però no. Devi condividere. Vabbè, io ho capito, Stefano, sei andato a picchiare o no tu? Sei andato non è carino da parte tua. Sì, beh, ho capito, non è carino. Non mi permetterei mai. Comunque, sei andato a spaccare qualcosa o no? No, comunque la mia città io ci tengo, però curiosità, no? In una piccola realtà come Cremona ero andato a vedere gli scontri. Quali scontri? Tu sei andato a vedere gli scontri? Già uno che va a vedere gli scontri perché è attratto dalla casa con la fidanzata. Di cui bisogna rendersene conto, sì, cioè, ma... non può vedere solo filtrato attraverso lo schermo della televisione. Io non ho capito se tu approvi quei signori che sono andati a sfondare tutto. Da un certo punto di vista sì, da un certo li approvi. Ma anche perché tu quando continui a chiedere chi è che paga i danni, chi è che paga appunto, no, ma te lo chiedo anche a te, chi è che paga le assicurazioni, guarda che da un certo punto di vista portano lavori Black Block da a chi portano lavori? I vetrai, il giorno dopo tutti i vetrai a sistemare le vetrine, grandi soldi che girano. Beh, sicuramente saranno stati contenti i vetrai, su questo non c'è dubbio, gli imbianchini vetrai portano, i Black Block portano lavoro, questa è una teoria interessante. Portano lavoro, è una coglionata però no, non è vero, sì è una coglionata. E dai, poi un'altra cosa, se dimmi. Ti pensi, se io do fuoco in centro a Milano a un M5, sì, a un X6, adesso non so, altre macchine del genere, chi è che paga? L'assicurazione. Vabbè, ho capito, ragazzi, c'è sempre qualcuno che... Ma cosa vuol dire? C'è sempre qualcuno che paga, aumentano i premi assicurativi, rotture di coglioni, carte bollate. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Tribunali, contenziosi, non è mai così semplice come dici tu. Sono rotture di palle, ma perché poi uno, se fosse come la dipingi, se fosse come la dipingi tu, sarebbero tutti contenti. Dice che bello, mi hanno bruciato la moto, adesso mi faccio dare i soldi dell'assicurazione. Beh, non è proprio così, Mi hanno bruciato la macchina, che cosa straordinaria. Dai, su, tra l'altro pure alla hanno bruciato pure la macchina della compagna di Salvini. Una di quelle macchine bruciate, ho letto da qualche parte, è della compagna di Salvini. Sì. Vabbè, immagino, chissà che trauma per lei a comprarsi la macchina nuova, che comunque gliela paga l'assicurazione, no? Ma e che c'entra? Ma cosa c'entra? A parte che bisogna vedere la seccatura. Ma guarda che è incredibile, ma Stefano, sei veramente pazzesco tu, Cioè, non sembra che c'hai. Cioè, sembri veramente lobotomizzato. Vabbè, Stefano, ciao. Come lobotomizzato? Andrea da Bari, vai, Andrea. Ciao Giuseppe, senti, dimmi. Io ti volevo chiamare per raccontarti quello che mi è successo qualche giorno fa, perché io sono uno studente di infermieristica in ospedale. Sì, che è successo? Praticamente c'era una signora da noi che era musulmana, io mi sono avvicinato per fargli un prelievo, e a un certo punto la signora ha cominciato a dare di matto, perché praticamente secondo la sua religione noi, cioè gli infermieri maschi, non si possono avvicinare e toccare il corpo della donna. E tu perché non gli hai mandato la tua collega? Perché io ho detto, guardi, non c'è nessuno in turno. No, a parte che non era, ma poi abbiamo 35 letti, la mia collega era occupata, non è che possiamo mandare ogni volta a decidere chi. Beh, allora non gli hai fatto il prelievo? No, poi a un certo punto io ho chiamato il mio infermiere responsabile, e il mio responsabile le ha detto, senta, ma se non si vuole fare il prelievo noi la dimettiamo, perché giustamente non è così grave quello che ha, lo deve far fare. Certo. Perché non è possibile, lei si deve adattare alle condizioni... È normale, questo sarebbe normale in tutti i posti. Cioè, se tu sei un infermiere maschio, devi fare un prelievo alla signora che non se lo vuole fare perché tu sei un maschio, e vada a fare in culo questa anche qua. Anche perché poi il marito cominciava gentilmente a gridare, viene mandato a fare in culo, molto gentilmente, in maniera molto tranquilla, molto, molto pacata. Signora, si accomodi e poi vada gentilmente a fare in culo, ci ha fatto perdere tempo. Se la sua religione non consente che un uomo faccia un prelievo, va benissimo. Noi però non abbiamo infermieri in questo momento, non abbiamo altro personale disponibile per lei, per la sua religione, per le sue cose, dunque vada gentilmente fuori. Anche perché poi di solito quando noi facciamo queste procedure, cioè anche la gente, anche altre donne che magari italiane, che chiedono cioè, se è possibile avere un'infermiere donna, ok, se c'è la disponibilità. Ma sì, beh, certo, ma se non c'è, non c'è. Ha fatto l'esempio giusto, perché alle volte infatti ci sono delle donne o degli uomini, viceversa, che vogliono la persona dello stesso sesso a farsi. Certo, fare. Ma in quel caso noi trattiamo la gente in maniera paritaria, cioè a quel punto. Però ha fatto non l'esempio giusto, calzante. Va bene, Roberto da Cuneo, vai per concludere, vai Roberto, vai. Ciao carissimo, scusa. No, non sei sì, chiudi, vai Roberto. Sì, eccomi qua. Allora, volevo dire. No, non puoi dire niente perché non si sente. Roberto, allora, o ti fai sentire in 30 secondi oppure ti mandiamo via, dai. Si sente? Sì, dimmi, vai. Benissimo, volevo dire che siete dei professionisti della divisione. Due fazioni, contrapposizione, bianco-nero, destra-sinistra. E io quelli di destra, come quelli di sinistra... Li considero dei parzialmente lobotomizzati. Bene, ci spiegherai domani. Capace di usarlo tutto il cervello. Ci spiegherai domani. 18:30, ciao. Allora, la sua è una bella trasmissione, ma il modo di rapportarsi con il radio con il radioascoltatore non è adeguato ed è del tutto fuori luogo, ok? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Se no la trasmissione se la fa lei da solo la prossima volta. Radio 24. La passione si sente.